DPG, siamo nel gioco con le nostre regole. Se fotti con la gang allora seguile. Tieni sempre una canna d'erba accesa, non farla mai spegnere. Se ti fermano tu non gli dire niente. Ricorda le regole, la numero 1 è la 7 e così anche la seconda è la 3. Dark gang, se non parli di quello siamo sordi sul serio. Parli di che? Parli di euro. Spendo i miei soldi in gioielli, spendo soldi in stupefacenti. Poi stolto come i pesci o nel mare insieme agli uccelli. Abbiamo regole, non seguiamo leggi. Tipo anarchia una delle prime. Non parlo con la polizia e così via. Mi fanno dark, stai troppo fatto. Forse dovresti smettere. Ma non siamo gli stessi, io sono un extraterrestre. Tipo astronave, raggi laser, pelle verde hai presente. Arrivo su un'astronave con un nuovo giacchetto di quella mia ragazza che l'amo, a mia mamma che l'amo, ai miei soldi che li amo, alla gang dico facciamolo. Appena sveglio buon dì, già penso a fare soldi. Fotti la dark e muori, uno fra i tanti modi. Regole come un gioco da tavolo, non è un gioco, neanche un po'. Ho amici che sento che hablano e se li chiamo li aprono. Guarda quando entriamo e saltano, tipo toro meccanico. DPG 777, Roma è sulla mappa, mo. DPG, siamo nel gioco con le nostre regole. Se fotti con la gang allora seguile. Tieni sempre una canna d'erba accesa, non farla mai spegnere. Se ti fermano tu non gli dire niente. Ricorda le regole, la numero 1 è la 7 e così anche la seconda è la 3. Dark gang, se non parli di quello siamo sordi sul serio. Parli di che? Parli di euro. DPG, siamo nel gioco con le nostre regole. Alieni dallo spazio come Marte, Giove o Venere. Ho una canna grossa da accendere, stronzo fammi accendere. DPG 37, rispetta le regole. Non parlo con una guardia, non parlo con uno psicologo. Non chiedo scusa, torno in strada per fare peggio. Entro con la gang, GK, apre d'arredo. Buste nella Gucci come un portabagagli. Veniamo dai rioni come mercati in piazza. In giro con la gang, se mi vedi cambia strada. Anche se sto con la tua tipa, sai non sono geloso. Faccio uno squill aside, ci vediamo a glorioso. Vuoi fottere la dark, è una rotella fuori posto. Troppi enigmi, enigma come Joker in manicomio. Siamo il meglio come una partita a polo. Yeah.